Gli assassini inseguono Pinocchio e, dopo averlo raggiunto, lo impiccano a un ramo della quercia grande. Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando, nel girare gli occhi all'intorno, vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve. «Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo», disse dentro di sé, e senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa e gli assassini sempre dietro. E dopo una corsa disperata di quasi 2 ore, finalmente tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggior violenza, perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale, senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo: «In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti». «Aprimi almeno tu!» gridò Pinocchio, piangendo e raccomandandosi. «Sono morta anch'io». «Morta? E allora che cosa fai costì alla finestra?» «Aspetto la bara che venga a portarmi via». Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore. «Oh, bella bambina dei capelli turchini!» gridava Pinocchio. «Aprimi, per carità! Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass...» Ma non poté finire la parola, perché sentì afferrarsi per il collo e le solite vociacce che gli brontolarono minacciosamente. «Ora non ci scappi più!» Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i 4 secchini che teneva nascosti sotto la lingua. «Dunque?» gli domandarono gli assassini. «Vuoi aprirla la bocca, sì o no?» «Ah, non rispondi. Lascia fare, che questa volta te la faremo aprir noi». E cavato fuori 2 coltellacci lunghi e affilati come rasoi, zaff, gli affibbiarono 2 colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le 2 lame, spezzandosi, andarono in 1000 schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. «Ho capito», disse allora uno di loro, «bisogna impiccarlo». «Impicchiamolo!» «Impicchiamolo!» ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta, detta la quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignassando: «Addio a domani. Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata». E se ne andarono. Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che, soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio d'una campana che suona a festa, e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi, e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannavano, e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, Eppure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì, come intirizzito. La bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama 3 medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva ormai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e, impietositasi alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di tramontana, batté per 3 volte le mani insieme e fece 3 piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. «Che cosa comandate, mia graziosa fata?» disse il falco, abbassando il becco in atto di reverenza. Perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro, in fin dei conti, che una buonissima fata che da più di 1000 anni abitava nelle vicinanze di quel bosco. «Vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande?» «Lo vedo!» «Orbene, vola subito laggiù, rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piè della quercia. Il falco volò via e dopo 2 minuti tornò dicendo: «Quel che mi avete comandato è fatto!» «E come l'hai trovato? Vivo o morto?» «A vederlo pareva morto, ma non deve essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro balbettando a mezza voce: «Ora mi sento meglio!» Allora la fata, battendo le mani insieme, fece 2 piccoli colpi e apparve un magnifico can barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale quale come se fosse un uomo. Il can barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala, aveva in capo un nicchiettino a 3 punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con 2 grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzon corti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli, tutta di raso turchino, per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere. «Su da bravo Medoro», disse la fata al can barbone, «fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito?» Il can barbone, per far intendere che aveva capito, dimenò 3 o 4 volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da 100 pariglie di topini bianchi e il can barbone, seduto a cassetta, schioccava la frusta a destra e sinistra come un vetturino quando ha paura d'aver fatto tardi. Non era passato 1/4 d'ora che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa, prese in collo il povero burattino e, portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla, mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato. E i medici arrivarono subito uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante. «Vorrei sapere da lor signori», disse la fata, rivolgendosi ai 3 medici riuniti intorno al letto di Pinocchio, «vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo». A quest'invito il corvo, facendosi avanti per primo, tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi e, quando ebbe tastato ben bene, pronunciò solennemente queste parole: «A mio credere il burattino è bell'e morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo». «Mi dispiace», disse la civetta, «di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me, invece, il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero». «E lei non dice nulla?» domandò la fata al grillo parlante. «Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto, quel burattino lì non m'è fisionomia nuova. Io lo conosco da un pezzo». Pinocchio, che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto. «Quel burattino lì», seguitò a dire il grillo parlante, «è una birba matricolata». Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito. «È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo». Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli. «Quel burattino lì è un figliuolo disubbidiente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo». A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti allorché, sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. «Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione», disse solennemente il corvo. «Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega», soggiunse la civetta, «ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace a morire».